donna esperta proprio di questo genere di delitti, ha studiato, ha lavorato presso parecchie agenzie anche dell'ONU, ha viaggiato intensivamente in zone di conflitto. L'abbiamo raggiunta in Svizzera, abbiamo chiesto come possiamo descrivere la situazione in Congo, in particolare in Kivu, lì dove opera il dottor Mukwege, relativamente all'utilizzo della violenza sessuale come arma di guerra. Sexual violence as a weapon of war is still very present in DRC, especially in the Kivus, I would say. La pratica dello stupro come arma da guerra è ancora molto presente in Congo, specialmente nella zona del Kivu. E la situazione è particolarmente preoccupante perché dopo 20 anni di guerra in cui la violenza sessuale era uno strumento per distruggere individui e comunità, questa violenza è stata compiuta nel corso di tutti questi anni con un'impunità quasi totale, che ha provocato molte conseguenze. Molte persone sono cresciute con l'idea che la violenza sessuale possa essere commessa senza nessun tipo di punizione e questa è una delle ragioni per le quali anche adesso continua a essere impiegata come arma di guerra. E anche se il conflitto in questo periodo si sta mantenendo a bassa intensità, i numeri delle violenze sessuali continuano a essere elevati. Quello che posso dire sugli ospedali di Bukavu, Sud Kivu, è che negli ultimi 2 anni non hanno registrato un aumento del numero di stupri. Così, ad esempio, se si guarda le statistiche, molte donne e ragazze, ma anche in misura minore uomini e ragazzi, che sono stati curati da una violenza sessuale, negli ultimi 2 anni siamo tra le 13.000 e le 19.000 persone, e si tratta di una cifra stabile. Sfortunatamente, temiamo che questa sia solo una parte del numero complessivo di stupri che stanno avvenendo. A part of the actual incidents that are occurring. Come avete sentito anche dal professor Pertile, esistono stati che per la loro fragilità consentono e offrono un humus particolarmente fertile, purtroppo, per questo tipo di delitti. Il Congo è in un certo senso l'ambiente perfetto nel quale si possono verificare numeri così alti di stupri. Abbiamo una benefica cultura di questo tipo, piuttosto violenta, un senso di impunità altrettanto benefico delle milizie e molto spesso anche i soldati governativi che lo utilizzano come arma per diffondere il terrore. Quindi tutti gli elementi sono ancora presenti. Sentite ancora la ricercatrice. Esattamente. Tra i miliziani e i soldati del governo che hanno impiegato la violenza sessuale come arma, pochissimi sono stati espulsi o arrestati. E questo produce una situazione nella quale la violenza sessuale è ancora diffusissima. Un punto importante da sottolineare è che non si tratta di una violenza decisa dal singolo, ma una violenza strutturale legata al conflitto bellico. Se si guarda il profilo delle vittime negli ultimi anni, include moltissime ragazzine estremamente giovani e addirittura include bambine. E sto parlando anche di bambine sotto gli 8 anni, che sono state stuprate non solo per distruggere loro, ma anche le loro famiglie e le loro comunità. Deliberately to destroy not only those children, but also their families and their communities. La voce che sentite è quella di Esther Dingemans, che è direttrice della Dennis Mukwege Foundation, è un'organizzazione di base in Olanda, con una sede anche in Svizzera, lì dove abbiamo raggiunto la dottoressa Dingemans. Questa organizzazione, questa fondazione, studia lo stupro, la violenza sessuale, proprio come arma di guerra e cerca di fare advocacy, di alzare la consapevolezza anche a livello istituzionale su questa odiosa pratica. Poi c'è un aspetto che è ancora più inquietante, se volete. Qual è la relazione dello stupro, della violenza sessuale durante un conflitto con il fattore etnico? Ad esempio, una milizia Hutu o Tutsi potrebbe pensare che lo stupro sia un modo per diffondere il proprio sangue. Sentite cosa dice Esther Dingemans. In Congo lo stupro è stato usato come una strategia precisa per distruggere il nemico, più che per stroncare l'etnia del nemico, come ad esempio era successo in Bosnia. Detto questo, è difficile leggere nella testa degli altri. In alcune zone del Congo il conflitto degli altri prosegue. Guardiamo cosa succede nel Kasai, dove lo stupro è stato impiegato dal gruppo opposto come arma per distruggere e disperdere una comunità lontana dal suo luogo d'origine. Of the opposing group. L'utilizzo dello stupro e della violenza sessuale come arma di guerra è odioso perché è rivolto contro un individuo, evidentemente, è la singola donna che viene colpita. Però c'è una comunità dietro, c'è una situazione familiare dietro. Quali sono le conseguenze che la comunità si porta dietro dopo uno stupro? Questo è un punto molto importante. Le conseguenze dello stupro come arma da guerra sono enormemente sottovalutate. Non distrugge solo un individuo, ma abbatte intere comunità per le generazioni a venire. Alcune comunità della Repubblica Democratica del Congo hanno subito enormi livelli di trauma che riguardano anche i bambini. Si sono venuti a creare problemi psicologici di fiducia, di stigma, che continuano a caratterizzare le comunità per anni e anni a venire. Per questo, secondo me, è importante fare un appello e chiedere di tornare a investire sul recupero di comunità nelle quali questo tipo di violenza ha avuto luogo. In communities where this type of violence has taken place. I numeri molto spesso che la cronaca ci restituisce rispetto allo stupro utilizzato come arma di guerra non rispondono alla verità, nel senso che molte volte le donne non denunciano. Evidentemente state capendo anche i motivi, a volte sono ferite invisibili che la comunità si porta dietro. Io lavorai nel 2010 in Repubblica Democratica del Congo, proprio nel Nord Kivu, e andai a visitare un villaggio 3 mesi dopo che per 3 giorni e 3 notti furono stuprate 200 donne di quel villaggio. Tutti puntarono il dito contro una milizia Hutu ruandese, gli FDLR, il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda. Quando arrivai nel villaggio, erano passati già 3 mesi, lo stigma sociale, l'emarginazione verso le vittime era evidente. Per poter avere la testimonianza delle donne dovevamo quasi nasconderci dai mariti, chiuderci in una capanna per cercare di poter parlare liberamente appunto con queste vittime. Se dal punto di vista dell'apparato giuridico internazionale, come ci confermava il professor Marco Pertile dell'Università di Trento, gli strumenti ci sono, le armi, è il caso di dire ci sono, per difendersi, per condannare, per perseguire questo genere di crimini, purtroppo, come state sentendo, ci sono ragioni etniche, ci sono ragioni sociali, ragioni anche conseguenze, quindi andare a combattere il fenomeno non è assolutamente facile. Ho fatto questa domanda a Esther Dingemans, se lo ricordo, dirige la Denis Mukwege Foundation, sentite che cosa dice. È molto complesso. Non tutta la violenza viene impiegata come arma di guerra, come tecnica di guerra. Il ruolo dei comandanti è estremamente importante. Un comandante può avere un'influenza enorme. Un comandante può utilizzare la violenza come arma, può incoraggiarla, ma può anche punire chi la usa. C'è molto lavoro da fare in merito. Allo stesso tempo ci può essere molta intensità nel lavoro di prevenzione, non tanto a livello internazionale, ma soprattutto a livello locale, per mostrare alle comunità che tutto ciò è inaccettabile. E poi ovviamente c'è molto da fare per rompere il silenzio, perché finché questa situazione rimane un tabù o viene nascosta per ragioni politiche, allora si continuerà a praticarla. Aumentare la consapevolezza, alla fine, aumenterà anche la prevenzione. Conoscenza e rompere il silenzio forse sono le armi più formidabili che la comunità, la società civile ha a disposizione per combattere lo stupro come arma di guerra. Adesso noi facciamo una piccola pausa, l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questa è la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Oggi vi stiamo raccontando di numeri di cui non vorremmo rendervi conto. Tornando anche indietro nel tempo, durante il genocidio ruandese del 1994 furono stuprate 500.000 donne. Durante la guerra nella ex Jugoslavia in Bosnia-Erzegovina 40.000. Sono numeri che molto spesso sono soltanto la punta di un iceberg di questo efferato delitto, che molto spesso viene utilizzato da eserciti regolari e da milizie, da cosiddetti ribelli come vera e propria arma di guerra. Perché? Perché semina il terrore, perché destabilizza, perché va a colpire intere comunità e, se volete metterla anche sul piano etnico, ed è successo, consente una contaminazione sull'avversario. A volte la contaminazione è persino sanitaria. Se ricordate, i più attenti che studiano quella zona lì, proprio nel 94 una fetta di Interahamwe, quella milizia Hutu che uccise quasi 800.000 Tutsi, ma anche Hutu moderati, beh, c'erano dei plotoni, dei battaglioni di Interahamwe sieropositivi a cui veniva dato l'ordine: andate e stuprate. Ai noi tutto ciò succede ancora, e mentre vi stiamo parlando, ragionevolmente, in quello che è un lunghissimo conflitto che attanaglia il più giovane stato africano, che è il Sud Sudan, in cui ancora si combatte, ancora molto probabilmente viene utilizzato lo stupro come arma di guerra. Ma che cosa vede e chi accoglie la persona? Molto spesso sono medici o ostetrici che si trovano davanti a una vittima. È la domanda che facciamo a Eliana Boneschi, che è un'ostetrica per Medici Senza Frontiere, ha lavorato in Iraq e ha lavorato appunto in Sud Sudan. Boneschi, buongiorno, benvenuta in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. Allora, lei ha lavorato in due teatri particolarmente complessi e particolarmente difficili, in cui la violenza sessuale nel teatro appunto era presente, in cui lei si è trovata di fronte vittime, donne che avevano subito lo stupro. Come avviene questo incontro tra lei, che le cura, il primo soccorso, e la vittima? Che cosa vede? Sì, prima di tutto c'è da ricordare che appunto le vittime o i sopravvissuti, per meglio dire, di violenza sessuale sono tristemente non solo donne, ma anche bambini, anche uomini. E quando per fortuna si presentano le nostre cliniche, vediamo proprio i segni di quelle che sono le conseguenze sociali di cui si parlava prima, ma sicuramente anche psicologiche e fisiche. È una violenza che è a carico di tutto il corpo, quindi ci sono conseguenze sistemiche come dei traumi, delle fratture possibilmente a tutto lo scheletro, che possono portare a un sanguinamento profuso fino allo shock emorragico e potenzialmente alla morte. E poi c'è tutta una serie di conseguenze a carico dell'apparato riproduttivo, quindi delle lacerazioni genitali che possono essere molto severe, soprattutto nel caso di bambini e di bambine. La presenza di gravidanze indesiderate che possono esitare in aborti clandestini, quindi molto rischiosi, piuttosto che la possibilità dell'infanticidio del neonato non desiderato. Sicuramente se la violenza viene in gravidanza, c'è la possibilità di aborti a ogni epoca gestazionale, la possibilità che il feto muoia in utero, che la placenta si stacchi. E poi c'è tutta una serie di conseguenze fisiche a lunghissimo termine, come appunto la formazione di fistule tra, per esempio, la vagina e il retto, piuttosto che la vescica e la vagina. Quindi queste donne si trovano ad avere delle conseguenze per sempre, come la perdita di urine piuttosto che di feci, insomma tutte delle condizioni che aumentano quello che è lo stigma per tutta la vita. Ecco, questi sintomi sono quelli che cerca e che molto spesso riesce a curare Denis Mukwege, che è questo medico di Bukavu, del Sud Kivu, che ha aperto questo ospedale, l'ospedale Panzi, lo ricordo che è un'eccellenza, considerata anche la situazione del Kivu. Lui cerca proprio di riparare le donne, e sto citando in questo caso il documentario a lui dedicato. Dicevo all'inizio di questa trasmissione che lo stupro è un'arma che costa davvero poco, perché costa meno, non si sprecano pallottole, diciamo, per così dire, ma gli effetti sono devastanti, come ci conferma Eliana Boneschi, che è un'ostetrica di Medici Senza Frontiere, che ha lavorato in Iraq e in Sud Sudan. Eliana Boneschi, lei faceva riferimento anche allo stigma sociale. Io prima ricordavo questa mia piccola esperienza in cui ho tastato con mano quanto il villaggio, quanto la comunità poi tenda a rifiutare le vittime, come se le vittime stesse fossero a loro volta colpevoli di quello che è accaduto. Lei che esperienza, esatto, può riportarci? Sì, insomma, nei teatri di guerra sappiamo bene che appunto guerra e povertà vanno sempre di pari passo. Sono culture, sono società che vanno a colpevolizzare spesso la vittima, perché è considerata in qualche modo responsabile di quello che le è o che gli è successo. Lo stigma è fortissimo, quindi quella persona non verrà probabilmente più sposata, verrà ripudiata dalla comunità, le verranno tolte quelle che sono le sue cariche, le sue responsabilità. Quindi la decisione di uscire di casa e cercare aiuto, cercare una clinica che possa dare delle cure mediche, è veramente una scelta che richiede una forza e un coraggio esagerati. Sì. Soprattutto perché sono appunto paesi poveri in cui anche l'educazione della popolazione è povera, quindi non si immagina che una violenza sessuale possa avere delle conseguenze sulla salute e che quindi possa richiedere una cura medica. La sensibilizzazione, questo parlarne nella comunità in un intervento, in un programma per questo genere di cure deve essere fatta in modo quotidiano, tutti i giorni bisogna parlare con la comunità e spiegare, altrimenti noi ci accorgevamo che non appena smettevamo di parlarne alla radio, parlarne nei nostri gruppi, il numero di vittime che ricevevamo crollava improvvisamente. Sì. Intanto al 349-238-6666 ci sono un po' di messaggi, di sollecitazioni, c'è chi dice la storia ci dice che in guerra gli invasori stuprano e distruggono, è vero, la storia ci consegna questo, il diritto internazionale, l'etica, la morale ci dice invece che appunto questi delitti vanno perseguiti, e Marco Perti all'inizio della trasmissione ci ha detto attenzione, gli strumenti giuridici ci sono, quello che non c'è a volte è quel riserbo, per dirla come dire in maniera morbida, che le vittime hanno, quella ritrosia che hanno a denunciare il fatto, perché dietro non c'è una struttura sociale che accompagna la denuncia, e questo ce lo sta raccontando Ileana Boneschi di MSF, ha lavorato sia in Iraq che in Sud Sudan. Un altro ascoltatore via WhatsApp che con ironia dice che bella cultura che esiste in Africa, gli stupri sono successi anche in Bosnia e Erzegovina, per dire, sono successi anche in Siria e in Iraq, ve ne darò conto nell'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, che è una cultura violenta che purtroppo è trasversale e abbraccia tutti i paralleli e le latitudini, ai noi. Volevo tornare da Ileana Boneschi perché almeno insomma forse una storia di un incontro particolare tra lei come ostetica e una vittima magari in Sud Sudan ci può aiutare, come dire, a dare un po' di luce, un po' di positività a un racconto che mi rendo conto è a tinte fosche quest'oggi. Sì, tristemente le storie erano molte ed erano tutte molto simili. La storia più comune era quella appunto delle donne abusate nel loro villaggio di origine, appunto dalle truppe dell'opposizione, dalle truppe ribelli a seconda di dove si trovassero, che quindi venivano costrette a spostarsi, e durante tutto il loro viaggio verso un posto più sicuro erano giorno e notte sicuramente esposte a un rischio di violenza pressoché quotidiano. Raggiungevano poi per esempio un campo rifugiati dove teoricamente dovevano essere un pochino più protette, anche se sappiamo che in questi insediamenti informali il rischio di violenza è ancora più alto. Operavo in un grandissimo campo sfollati dove le donne di fatto all'interno vivevano di aiuti umanitari che non erano sufficienti al loro sostentamento, quindi si trovavano costrette ad uscire magari dal campo tutti i giorni per banalmente raccogliere della legna per poter vendere e fare qualche piccolo soldino. Sì. Ovviamente uscire dal campo era un rischio enorme perché militari e non militari potevano sicuramente abusarne. Certo, e fra l'altro è particolarmente odioso il fatto che spesso questi crimini a volte questi crimini avvengono all'interno dei campi profughi, ancora una volta sì. Menziono la mia esperienza sempre in Congo, tutti i campi profughi attorno a Goma, capitale dell'est, del Nord Kivu, lì erano i militari governativi che entravano durante la notte per fare razzia. L'ultima domanda per Ileana Boneschi, che come dire con precisione chirurgica ci ha spiegato gli effetti e quelle che sono anche le conseguenze, le ferite fisiche, poi però la vittima si porta dentro altre cose, no? Anche psicologiche, so che forse voi non trattate esattamente questo, ma per quello che ha visto quanto poi è difficile il recupero dal punto di vista psicologico di queste vittime, se esiste secondo lei? Ma sì, diciamo che se una piccola parte delle conseguenze fisiche possono poi svanire, perché appunto il corpo può poi guarire, i segni sull'animo non svaniscono se non sono stati correttamente, diciamo, accompagnati alla guarigione. Quindi sono donne che arrivavano nella clinica, si sedevano e molto spesso avevano soltanto bisogno della frase "non è stata colpa tua". Certo. Adesso sei in un posto sicuro e facciamo il possibile per farti stare meglio. Quindi questo era già il principio, proprio l'inizio del processo di guarigione per le loro menti. Fra l'altro, Ileana Boneschi, questo ci fa capire anche i costi. Noi, in maniera forse cinica, amiamo anche parlare di queste cose, no? Il costo per il recupero delle vittime è altissimo. Pensate a un accompagnamento psicologico che dura anni, se non decenni. Pensate in situazioni in cui lo Stato non è esattamente uno Stato solido, che cosa vuol dire avere una comunità, avere centinaia, migliaia di donne che sono state stuprate, sono famiglie segnate per sempre. Ancora una volta vi ricordo, io ho iniziato dicendo quest'arma qua è immediatamente disponibile, costa molto meno di una pallottola, ma ha effetti devastanti. Grazie mille, Eliana Boneschi, ostetrica di Medici Senza Frontiere, per essere stata con noi. Buona giornata, Eliana, e buon lavoro. Tanto, grazie mille. Grazie. Allora, 349-238-6666, c'è chi ricorda durante l'occupazione dell'Italia da parte degli alleati al loro passaggio distruggevano e stupravano, basta vedere la Ciociara e ascoltare la canzone napoletana Tammurriata Nera. La canzone la ricordo, non ricordo se fosse, quindi, la descrizione di uno stupro o di una relazione, mentre sì, è vero, la Ciociara parla ovviamente di uno stupro. Poi c'è chi ricorda, insomma, altri riferimenti documentaristici più video, sui russi per esempio, quando nel 45 hanno conquistato, Berlino. Allora, pausa, sì, andiamo sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, andremo in Medio Oriente. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Terza pagina di Nessun Luogo Lontano, in cui quest'oggi stiamo cercando di raccontarvi un fenomeno che, diciamo, molto spesso vi è emerso a soltanto la punta, come se fosse un iceberg. I numeri a volte sono corposi, altre volte sono assolutamente nascosti. Lo stupro, la violenza sessuale come arma di guerra, è un'arma potentissima, efficace, che dispiega i suoi effetti non soltanto nello spazio, nel territorio che il nemico va a conquistare, ma anche poi nel tempo, come un'eredità benefica che intere comunità si portano dietro. Adesso andiamo in Siria, in Iraq, andiamo nel 2014, quando il neoproclamato Stato Islamico era al massimo della sua potenza di fuoco, quando ambiva a conquistare nuovi territori, quando entrava nei villaggi yazidi e i miliziani avevano un ordine preciso. Sentite intanto la voce di una yazida. Nadia Murad è stata prigioniera in Sinjar dell'ISIS, adesso è un avvocato ed è un attivista. Nadia Murad, che gioca ISD, e c'è Cingal Sharak. E questa testimonianza è una di quelle persone, di quelle donne che sono riuscite a uscire, a scappare dalle mani, dalle manette, dalle prigionie dei miliziani dell'ISIS, e adesso dice continuo a lottare perché no, non è stata colpa mia, e lo dirò a gran voce. Qual è la strategia dell'ISIS? Quale, come dire, armi affila lo Stato Islamico relativamente a questo tema? Giro la domanda a Daniele Reneri, redazione esteri del Foglio, esperto di Medio Oriente e mondo arabo, ha visitato molto spesso quei luoghi. Daniele Reneri, lo stupro, la violenza sessuale come arma di guerra è parte dell'arsenale di ISIS o no? Ma diciamo che è uno strumento di dominio, non è un'arma di guerra nel senso che loro non cercano di non pubblicizzare la cosa, non la usano in modo punitivo. Come fanno per esempio altri, come fanno per esempio alcuni regimi nell'area. Diciamo che è uno strumento di dominio che serve anche a reclutare nuovi volontari, anche a reclutare nuovi combattenti, perché diciamo che nel 2014 per i giovani arabi una parte dell'appeal lo Stato Islamico era anche la promessa di una felicità sessuale, nel senso che lo Stato Islamico si occupa attivamente di trovare moglie ai combattenti che arrivano. E poi c'era anche questa cosa delle sabaya, è la parola araba che indica le schiave, che erano il bottino di guerra. Lo Stato Islamico considera la minoranza yazida in Iraq come una massa di subumani, proprio non umani, cioè senza gli stessi diritti delle persone. Sì. Quindi quando ha conquistato i territori degli yazidi ha ucciso tutti i maschi sopra una certa età, si è presa come schiavi i bambini e le donne come schiave sessuali, hanno fatto un mercato. Però è particolare questa cosa, lo Stato Islamico, diciamo, ha fatto opera di propaganda su tutto quello che ha commesso, su ogni atrocità commessa in Iraq e in Siria, ma si guarda bene dal pubblicizzare questo lato. Voglio dire, non ci sono immagini del mercato delle schiave, anche il canale Telegram dove queste schiave venivano contrattate come da noi, diciamo, c'è seconda mano per gli scooter e le auto, c'era il prezzo, le caratteristiche, gli occhi, l'anno di nascita, sì. erano proprio contrattate in questo modo. È una cosa che non viene molto pubblicizzata, però appunto, come dicevo, fa parte dell'appeal. Io mi ricordo il messaggio su Twitter di un combattente dello Stato Islamico in Libia che diceva: ah, non vedo l'ora, prima o poi ci prenderemo qualche sabaia italiana, perché a quel tempo, diciamo un paio di anni fa, loro puntavano sì. a usare la Libia come piattaforma di lancio per poi arrivare in Italia. Diciamo che questo fa parte della loro attitudine, loro considerano appunto la possibilità di prendere schiave del sesso, tanto che alcuni foreign fighters dello Stato Islamico, che però diciamo non avevano capito questa natura così appunto, questa spiegazione data dall'ISIS, ossia che gli yazidi non sono neanche umani e quindi si può farne quello che si vuole, contestavano questi stupri di massa, dicevano, ma anche abituati diciamo a una certa severità del Corano, sì. e però i capi dello Stato Islamico sono intervenuti e hanno spento questa dissidenza, in alcuni casi con la violenza, nel senso che hanno imprigionato alcuni foreign fighters che erano rimasti diciamo esterrefatti da questi stupri di massa, da questi rapimenti di donne. Loro erano arrivati diciamo con questa idea ingenua dell'Islam che protegge le genti e che ecco e si sono dovuti ricredere. Ma il fatto che lo Stato Islamico sa che ovviamente questo diciamo non è un punto così chiaro, e infatti non lo pubblicizza, ne ha accennato, ne ha parlato un paio di volte nelle sue riviste, ma non fa uscire foto, per esempio. Sì, no, molto interessante quello che dice Daniele Renelli, lo ricordo, redazione esteri del Foglio, seguitelo su Facebook e su Twitter perché posta sempre analisi e racconti molto molto interessanti, lo ricordo, parla arabo correntemente, quindi le fonti di prima mano le maneggia molto molto bene. Intanto al 349-238-6666 c'è una domanda da parte di Ernesto alla quale Daniele Ranieri in parte ha già risposto, una domanda un po' cruda: ma lo stupro in guerra quanto è sistematico e quante ricompensa le truppe? Abbiamo capito per esempio che nella tattica, nella strategia di ISIS era una ricompensa alle truppe, parlo della mia esperienza, soprattutto Africa subsahariana, molto spesso i miliziani quando entrano in un villaggio il loro comandante dice: se conquistate il villaggio è vostro, con i sacchi di farina, donne e quant'altro. Stiamo sì, in quella... sì, prego Daniele. Ma poi vi dovete rendere conto che qui stiamo parlando per esempio di 19 anni tunisini che non hanno, voglio dire, in molti paesi arabi la sfera sessuale è molto repressa, quindi potete immaginare questi giovani tunisini che non avevano nessun contatto col sesso opposto, che diciamo vivevano in ambienti molto conservatori, molto rigidi, arrivare in Siria e trovarsi così, diciamo, gli danno un Kalashnikov in mano e dicono: potete avere delle schiave se ve le conquistate. Capite che è proprio una mentalità da razziatori, che però attirava molto, certo. Attirava molto le persone. Una forza attrattiva evidentemente sì. dirompente. Stiamo in Siria però, Daniele Ranieri, andiamo a Damasco, perché 3 giorni fa l'Independent ha pubblicato un'inchiesta in cui si punta il dito sulle carceri di Assad, dove sarebbero venuti sistematici stupri rispetto alle prigioniere. E sì, diciamo che il problema delle carceri arabe è che sappiamo che sono, in particolare quelle del regime siriano di Bashar al-Assad, sappiamo che ci sono degli stupri sulle donne che sono rinchiuse. Vorrei ricordare che ci sono almeno 75.000 persone disperse in questi 6 anni di guerra civile da quando è iniziata la rivolta nel 2011, sì. Di cui non si sa nulla, e gli è uscito fuori e racconta appunto di questi stupri. Se si legge il rapporto che poi è finito sui giornali, le vittime degli stupri dicono che in alcuni casi erano filmati e c'era la minaccia poi di darli alle famiglie, ai parenti. E di nuovo, questa è già una cosa molto grave, è una minaccia che ti schiaccia se sei in un paese occidentale. Ma pensiamo di nuovo in una società araba, questa certo. è una minaccia che è la più dura e più cattiva delle minacce, questa di stuprarti e di poi consegnare il video e non parlo di un singolo stupratore, ma stiamo parlando di violenze di gruppo contro una singola donna, e poi di dare il video alla tua famiglia, alla tua tribù, al tuo clan. Sì, ancora una volta per andare, no, a, in qualche modo a sollecitare quello stigma sociale, quel senso di ripugnanza. E qui è veramente lo stupro come arma di guerra, sì. Perché una cosa del genere è capace di soggiogare un'intera famiglia, di, come certo. dire, di demoralizzare un intero villaggio, di ridurre all'obbedienza molte più persone della singola vittima. Quindi qui c'è veramente lo stupro come un'arma che non colpisce soltanto la vittima, ma anche tutti quelli attorno. Tristemente vero. Grazie mille, Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio. Seguitelo sui social. Grazie mille, Daniele. Buona giornata, buon lavoro. Noi siamo di corsissima, titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Tali, Elisa Pancaldi e Gianmarco Ferronato. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto. Vi do appuntamento questa sera alle 20 per la replica. Domattina, ore 6, siate mattinieri, fatevi una bella corsetta con Nessun Luogo Lontano nelle cuffie. E poi domani, ore 16, in diretta, l'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.